9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 9 febbraio da Oscar Giannino. E il tema di cui ci occupiamo oggi è un tema di quelli da prendere in mano con una dichiarazione preventiva. La dichiarazione preventiva da parte mia è quella di invitare voi in ascolto, coloro che mandano gli sms, coloro che interverranno a telefono, a dire la vostra, ma per favore evitando di bollare con giudizi personali pesanti, a seconda del vostro punto di vista, il tema di cui ci occupiamo oggi. Oggi ci occupiamo del congresso appena avvenuto dell'Italia dei Valori, quindi ci occupiamo di Antonio Di Pietro, ci occupiamo di un congresso nel quale all'inizio le cronache politiche davano, non dico per scontato, ma insomma c'era una convergenza tra osservatori di punti di vista diversi intorno alla possibilità che fosse un congresso nel quale il grande padre fondatore dell'Italia dei Valori, ex magistrato di Mani Pulite, rifondatore morale nell'ambizione della politica italiana, potesse andare incontro a un congresso nel quale un altro ex magistrato molto discusso come De Magistris dell'indagine Why Not, ricordate, entrato in politica e eletto europarlamentare nell'Italia dei Valori, potesse subentrargli. E invece su una linea, per così dire, non solo di rinnovamento, termine che nell'Italia dei Valori e da prendere fino alle estreme conseguenze, ma di maggiore intransigenza morale ancora rispetto alla campagna che aveva presentato in maniera tambureggiante da parte di organi di informazione dichiaratamente non solo scettici ma a volte ostili nei confronti di Di Pietro come un personaggio un po' contraddittorio, anzi parecchio contraddittorio, a cominciare dallo stile di conduzione delle finanze del suo partito, ad aspetti poco chiari del passaggio nelle diverse tappe professionali della propria vita, e così via, così via, così via. Sapete quante sono le domande su Di Pietro, fino poi alla pubblicazione, con quel rilievo in prima pagina del Corriere della Sera, della fotografia della cena tra Di Pietro, Contrada e altri ufficiali delle forze degli ordini e apparati di sicurezza dello Stato, sparata al Corriere della Sera dicendo: Di Pietro, spiegati. Se non che il congresso è andato in maniera molto diversa, come tutti sanno, ha confermato che Di Pietro ha un'abilità nella regia e nella talvolta dissimulata e simulata parte da popolano un po' sciocco che si autoattribuisce, perché in realtà è vero, abbiamo ascoltato dalla tribuna la rivendicazione di Luigi De Magistris di essere il nuovo, di avere quasi 20 anni in meno, 18 anni in meno di Di Pietro, però di fatto poi il congresso si è tramutato in un grande successo invece per Di Pietro, che, e ce ne siamo già occupati da questi microfoni, ha fatto anche, per così dire, parlare dalla tribuna Genchi, che è arrivato al punto di dire che Berlusconi si era inventato la statuetta sui denti, Genchi che il congresso attribuiva, per così dire, come posizione vicina a quella di De Magistris. Insomma, è stato un autogol anche per De Magistris. Alla fine due o tre colpi di scena di Pietro, che è abituato a fornire sorprese. La prima, quella di un giudizio sul voto dell'Italia dei Valori. L'Italia dei Valori è arrivato all'europeo oltre l'8%, ricordo che c'è in ascolto, come un voto di arroico addirittura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Di Pietro disprezza chi lo vota? Ma neanche per idea. Vuol dire che Di Pietro ha detto: guardate che il nostro è un voto di protesta, e quindi noi saliamo quanto più alta è la protesta. Però cosa diversa è la politica. Per fare la politica, dice Di Pietro, bisogna passare dalle piazze. Le piazze non bastano alla politica, cioè all'alleanza. Ed ecco, primo colpo di scena, l'alleanza col PD diventa l'abbraccio con Bersani in sala, e quasi l'obiettivo dichiarato di arrivare poi un giorno alla fusione. Secondo colpo sotto la cintola, De Magistris, alla più intransigente, ma anche in contraddizione con quello che l'Italia dei Valori aveva sempre detto, perché dalla lotta intransigente contro tutti gli indagati, ecco che in Campania si accetta il candidato del PD per la regione sindaco di Salerno, e il sindaco di Salerno, De Luca, che conosciamo, abbiamo invitato recentemente ai nostri microfoni in un dibattito con Ricolfi, il sindaco di Salerno, De Luca, ha dei procedimenti giudiziari pendenti, e quindi colpo di scena, perché Di Pietro modula la presentazione in sala, fa parlare De Luca, De Luca viene travolto dagli applausi, e quindi si sceglie il candidato indagato per la Campania. Oggi c'è chi giudica molto diversamente, ovviamente sulla stampa italiana tutto questo, prendo il punto di vista ovviamente più dichiaratamente critico, quello del giornale di Libero da una parte, poi prendo una posizione centrale, quella della stampa, poi prendo una posizione critica ma dal punto di vista assolutamente opposto rispetto a quello di Libero e del giornale, cioè quella del Fatto Quotidiano. Direi, ecco, che lo schieramento della stampa italiana è fatto di questi tre pezzi. Chi, come il giornale Libero, ovviamente continua a battere su, in maniera molto dura, sul personaggio di Pietro, sul senso della sua avventura politica, sul suo partito. La stampa oggi fa una pagina, secondo me, di pura informazione, però con un titolo che fa pensare quanto sia contraddittoria l'immagine di questo congresso. Il titolo è: la capriola di Di Pietro, ha vinto il congresso e ha rinsaldato l'alleanza con il PD appoggiando in campagna il candidato democratico De Luca, sindaco di Salerno sotto inchiesta. Ma l'ala giustizialista del partito e della società civile, continua l'occhione della stampa, ora lo accusa. Lui sul web ieri si difende: dovete capirmi, ma De Magistris non lo perdona. E in blu, la fine dell'occhio della stampa, si pone un quesito, un po' retorico forse, ma è uno dei quesiti di oggi. Il feeling con la base del fondatore dell'Italia dei Valori è finito? C'è un commento: meglio il carisma di un capo, di Gianni Vattimo, che difende il realismo, per così dire, di Pietro, in nome dell'alternativa possibile e giusta e necessaria dal punto di vista di Gianni Vattimo, parlamentare europeo dell'Italia dei Valori, ma indipendente. E c'è un'intervista a Marco Travaglio, che è tra i dichiaratamente delusi nello schieramento invece del Fatto Quotidiano, e intervista a Marco Travaglio, e anche Tonino ha fallito. Marco Travaglio, vedere il suo stile, non fa sconti al fondatore dell'Italia dei Valori e dice: sulla cosa dell'indagato non ci siamo per niente, tutta la gestione della campagna è stata da parte di Di Pietro disastrosa. Vi cito solo questa frase dall'intervista di Marco Travaglio. Il Fatto Quotidiano di oggi ha un editoriale firmato dal direttore Antonio Padellaro. Di Pietro, una domanda, lo approfondiremo nel corso della trasmissione, e poi è il quotidiano italiano che oggi offre più spazio a entrambi i protagonisti del congresso dell'Italia dei Valori. C'è un'intervista ad Antonio Di Pietro formato da Luca Telese, in cui Antonio Di Pietro spiega, cito il titolo: non un passo indietro, non potevo dare la Campania ai casalesi. E Di Pietro spiega: il patto è chiaro, se De Luca è condannato si dimette, nessuna poltrona per noi. E poi, con uguale rilievo fino all'ultima riga e analoga dignità di impaginazione, c'è un'intervista al contraltare, per così dire, al deuteragonista del congresso, cioè a De Magistris, firmata da Sandra Murri, il cui titolo è: perché De Luca altri erano i candidati. Lo sfogo di De Magistris: caro Tonino, così non va. La denuncia: appoggiare De Luca è un gravissimo cambio di rotta sulla questione morale. E amplissimo poi servizio sulle voci del web dei sostenitori dell'Italia dei Valori, perché molte sono le voci critiche che non hanno capito questa svolta, che iniziano a vedere un partito condotto con disinvolture da vecchia politica e da Prima Repubblica. Ecco, mi sono sforzato di essere il più sereno e imparziale possibile. Quello che ci interessa è vedere non tanto le consuete accuse di Pietro, lo sappiamo tutti, quanto se esiste davvero questo fenomeno di delusione nella sua base, cioè nella base più intransigente di rifondazione morale della politica italiana. Ne parliamo con i seguenti ospiti. Innanzitutto Felice Bolisario, presidente dei senatori dell'Italia dei Valori. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei, dottor Giannino. Poi Antonio Padellaro, il direttore del Fatto. Buongiorno Antonio. Buongiorno. E Alessandro Sallusti, condirettore del giornale. Buongiorno Sallusti. Buongiorno. Allora, Belisario, iniziamo con lei. Lei, diciamo, mi pare di capire che sta più con Di Pietro che con De Magistris, o no? Ma guardi, questo modo di impostare non mi convince, innanzitutto per cercare di seguire il suo ragionamento ci vorrebbero molte puntate, perché lei ha guardato con grande attenzione il fenomeno del mio partito e ovviamente le componenti importanti del nostro congresso. Sto con Di Pietro o con De Magistris. Di Pietro è stato acclamato presidente senza che nessuno si sia candidato in alternativa a Di Pietro. Io ero firmatario, d'altra parte non poteva essere diversamente, sono il capogruppo al Senato, della mozione che portava Di Pietro a presidente, per cui io sto con il partito che ha votato il presidente Di Pietro. Ritengo, lo dico con sincerità, che De Magistris sia davvero una risorsa importante per l'Italia dei Valori, perché porta dietro tutta la sua voglia, tutta la sua passione, tutto un modo probabilmente anche diverso da quello che egli ha trovato all'interno dell'Italia dei Valori di far politica. È un partito giovane, ha la necessità di fare sintesi. Noi ci stiamo provando tutti insieme, ribadisco, tutti insieme, perché vogliamo provare a dire qualcosa di importante nella storia politica italiana. Non so se glielo devo dire adesso, glielo devo... No, ritorneremo. Senatore, però io questo lo capisco, ho un grande rispetto di chi appartiene a un partito e alle diplomazie dovute, ma insomma la scelta di De Luca è stata una sorpresa, l'abbraccio a Bersani... Noi abbiamo provato in ogni modo, forse posso anche concordare con chi ci dice che noi potevamo trovare con più forza un candidato diverso. Noi abbiamo provato a trovare candidati che si cimentassero in Campania dopo il fallimento della politica di centrosinistra. Ci abbiamo provato a tutto tondo, nel mondo della scienza, nel mondo accademico, nel mondo del giornalismo, nel mondo delle professioni. Le devo confessare che non ci siamo riusciti e ci abbiamo provato davvero. D'altra parte, la candidatura di De Magistris era una chiave di svolta per noi, ma abbiamo rispettato il pensiero di Luigi, che ha detto: io voglio essere l'eurodeputato perché ho preso voti in tutta Italia, e ci sembrava una forzatura imporgli una candidatura se egli stesso aveva delle perplessità. Dopodiché noi potevamo scegliere tra una candidatura di bandiera, l'avremmo potuta fare, si sarebbe potuto candidare un parlamentare della Campania, un'altra personalità, l'avremmo potuto fare una candidatura di bandiera per decidere che il centro-sinistra avrebbe perso, avrebbe consegnato di fatto la Campania al sottosegretario Cosentino, e devo ricordare che anche la Cassazione ha confermato la legittimità della richiesta d'arresto che veniva da Napoli. E noi, devo dire la verità, il candidato del centro-destra è Caldoro. Sì, Caldoro sappiamo. No, io devo fare il mio mestiere. Se lei dice che il candidato è un altro, Caldoro è incensurato. Caldoro è incensurato. Lei sa quanto. Io non volevo. Ecco, appunto. Non mi costringa, perché sennò le faccio notare che gli epuratori ci hanno l'indagato e invece gli accusati di essere il peggio, Cosentino, la Camorra, eccetera, eccetera. Però c'era un incensurato, questo è come candidato in Campania, dico. Sì, ma io infatti sto dicendo, Caldoro per noi, per l'Italia dei Valori, è il nuncius, l'uomo di paglia che nasconde la candidatura di Cosentino. Siccome noi riteniamo, e ce lo fa ritenere, la pervicacia con cui il PDL non lo ha fatto dimettere non da parlamentare, ma da sottosegretario, una cosa che non è giustificabile, noi non avevamo altro che fare, magari con una buona dose di Malox, di sentire De Luca, di dargli delle condizioni, ponendo ferme quelle condizioni che sono per i nostri candidati. I nostri candidati, Antonio Di Pietro lo ha detto in sede di replica, chi sbaglia, ovviamente in senso metaforico, non vorrei che poi ritornassimo sempre al giustizialismo si taglia la mano. Cioè, il nostro codice etico interno. Vede, senatore Belisario, io la invito a riflettere. Lei mentre. Devo dire, io credo di essere oggi il meno incalzante che mai nella storia della mia vita. Lei da solo dice, io non vorrei poi che caricadessimo sempre nel giustizialismo. Si rende conto che detto da un parlamentare che ha incarichi importanti, l'Unità dei Valori, il Partito di Di Pietro, quello che vuole la moralizzazione dell'Italia, tutti voi volete distinguere, il dire, beh, io non vorrei ricadere nel giustizialismo. Testimonia da solo, no, scusi, testimonia da solo l'inviluppo un po' problematico rappresentato da questo congresso. Adesso la interrompo solo per farle fare due domande secche sul congresso, una da Antonio Padellaro e una da Sallusti. E continuiamo così, perché io a loro chiedo di fare domande più che a me. Padellaro, la domanda che poni oggi, Di Pietro, una domanda nel tuo editoriale qual è? Ma di domande ce ne sono tante, una fondamentale riguarda sì la vicenda De Luca, e devo dire che il senatore Belisario ha ben espresso la difficoltà in cui si è trovato l'Italia dei Valori e ha ammesso che forse una gestione diversa si poteva fare. Ma il problema secondo me è un altro, il problema è, come dice, più complessivo, come si diceva una volta, cioè quando Di Pietro dice la sterile protesta non basta, dice una banalità politica, però lancia anche un messaggio, e come sappiamo la politica è soprattutto comunicazione, particolarmente quando si sta in un congresso. Questo messaggio è stato, e credo che sia stato giusto così, interpretato come un adesso basta con le proteste contro il Berlusconi, la destra, il governo, tutto quello che c'è intorno a quella, alle cose che sto dicendo, e facciamo adesso, ricostruiamo l'Italia, che è un bellissimo programma, io lo sottoscrivo, ma non è quello che gli elettori dell'Italia dei Valori hanno inteso quando hanno dato un forte consenso all'Italia dei Valori, perché non dimentichiamo che l'Italia dei Valori nel centro-sinistra e la Lega nel centro-destra rappresentano i due poli che sono cresciuti maggiormente negli ultimi anni dal punto di vista del consenso. Allora la mia domanda è questa: se tu, Di Pietro, mandi un messaggio di questo genere, non basta la protesta, vabbè, ci siamo capiti, il tuo elettore si domanda, ma allora che succede? Diventate come gli altri? E se diventate come gli altri, ma perché io vi devo votare? Io trovo che la comunicazione di Di Pietro al congresso dell'IDV sia stata una comunicazione sbagliata, e lo dico sapendo che l'Italia dei Valori è un partito che ha rappresentato in questi anni un punto di riferimento per tutti quelli che volevano un'opposizione più dura. Insomma, si sente spesso dire l'opposizione nel Parlamento del Paese è un'opposizione molle, spesso assente, si parla soprattutto del Partito Democratico, meno male che c'è Di Pietro, meno male che c'è l'Italia dei Valori. Allora, nel momento in cui tu dal congresso dici adesso basta con questa fase, passiamo alla ricostruzione, che ripeto è un ottimo intento, e tu dai un messaggio sbagliato. Perfetto, ti interrompo perché c'è. E questo infatti è stato compreso dagli elettori, e i blog sono impazziti di critiche, non ne abbiamo pubblicato soltanto una parte, proprio perché questo messaggio non è stato capito. Buongiorno cari ascoltatori, ci stiamo occupando del congresso dell'IDV, della capriola, non capriola, questo è il titolo della stampa, sia nel dire basta piazza, alleanza seria con il PD, sia sul divieto assoluto di candidatura agli indagati. È un indagato, il candidato comune con il PD prescelto per la campagna, Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, e il caso dei Magistris al congresso, è entrato Papa, uscito Parroco, ha detto qualcuno, abbiamo sentito Antonio Padellaro, sentiamo un punto di vista dichiaratamente critico come quello del condirettore del giornale Alessandro Sallusti. Il titolo del giornale di oggi, lo ricordo, è Le bugie di Tonino e Di Pietro, disse al giudice, quest'uomo non lo conosco. Sallusti, allora, prego. Io credo che Di Pietro sia, forse insieme a Umberto Bossi, il più grande animale politico che c'è sul panorama, nel panorama italiano. Cosa intendo? Intendo uno che nasa l'aria, che tira prima degli altri. E il mio dubbio, il nostro dubbio è questo, cioè che Di Pietro abbia capito che per lui una stagione è finita, per lui personalmente più che per suo partito, nel senso che è caduta quella immunità ambientale di cui ha goduto negli ultimi 18 anni in quanto eroe di Mani Pulite, l'uomo che ha ripulito e moralizzato il paese, e che, come dire, stanno emergendo in maniera sempre più concreta tutte le ombre che hanno accompagnato questa sua avventura sia giudiziaria che politica. Perché cos'è successo nell'ultima settimana? È successa una cosa che non ha precedenti, cioè che il Corriere della Sera, il giornale dell'establishment, il giornale più rigoroso, il giornale insomma che tutti conosciamo, per ben due volte ha messo in prima pagina delle notizie che riguardano Di Pietro e che gettano una luce fosca sul suo passato e a tratti per certi versi sul suo presente. Cosa può voler dire questo? Vuol dire che c'è nella società civile, in tutte le sue diramazioni, quelle giudiziarie, quelle politiche, nei salotti buoni, eccetera, eccetera, si è rotto, si è crepato quel muro che ha sempre impedito di andare a vedere davvero che cosa è stato Di Pietro e chi è Di Pietro, e che per cui il politico Di Pietro abbia, come dire, spiazzato tutti cercando di entrare nell'establishment e quindi di trovare una protezione dentro l'establishment, e per cui abbia barattato il punto centrale del suo attività politica, mai con indagati, mai sostenevano indagati, e si sia consegnato a Bersani in cambio di un paravento, di una protezione politica che lo metta al riparo da brutte sorprese. Diciamo questo perché l'1 febbraio, cioè 7 giorni fa, Di Pietro in intervista a Repubblica addirittura con disprezzo parla di De Luca, dice mai con De Luca, non ce l'ha ordinato il medico di andare a sostenere De Luca in campagna, né il medico ci ha ordinato che dovevamo per forza presentarci al fianco del PD in campagna, e consigliava a De Luca di ritirarsi a studiare le carte processuali perché ne avrebbe avuto avrebbe tratto beneficio da questo studio. Poi improvvisamente cambia idea. Ecco, in questi 7 giorni, lo chiedo al senatore collegato con noi, non è successo nulla di politicamente rilevante, è successo però che sul Corriere della Sera, e non solo sul Corriere della Sera, si è cominciato a mettere in dubbio il passato di Di Pietro, le ombre di Di Pietro. E allora è possibile, questa è la nostra tesi, che Di Pietro abbia cambiato idea non per un problema elettorale in campagna, ma per un problema di sua sopravvivenza politica. Interessante questa lettura. Belisario, da chi comincia la risposta? Innanzitutto sono due domande diverse. L'una parte dai fatti, l'altra parte dai teoremi. Allora voglio cominciare dai fatti del direttore Padellaro. Per quanto riguarda la nostra politica, voglio tranquillizzare Padellaro, ma soprattutto gli elettori dell'Italia dei Valori e anche qualcuno che pensava di poterci addomesticare: noi non ci sposteremo di una virgola. Queste leggi sull'impunità, queste leggi sul legittimo impedimento, sulle leggi che servono comunque a Berlusconi, la nostra protesta sarà durissima nel Parlamento e sicuramente lo sarà sempre e anche nelle piazze, perché le piazze significa i cittadini, le piazze significa un dialogo continuo che noi vogliamo continuare a mantenere, ma non per una questione speculativa. Lo facciamo perché riteniamo davvero che bisogna continuare a dialogare con loro. In politica... E che però non bastano, ha detto Di Pietro, no, abbracciando Bersani. No, adesso arrivo. La politica è fatta di scelte difficili. La politica sempre del no, la politica sempre delle barricate, probabilmente serve a visibilità e ad accrescere soltanto il pacchetto di voti. Noi con questo congresso abbiamo cercato di dare un programma al Paese, il nostro programma, su cui accettiamo qualsiasi discussione, qualsiasi censura, qualsiasi integrazione, qualsiasi modifica, ma vogliamo partire per costruire una alternativa. Con chi? Certamente con l'unica forza di opposizione vera che abbiamo insieme a noi in Parlamento, perché tra due o tre forni di Casini, con un alleato, con una forza di opposizione che definisce l'Italia dei Valori come zavorra, beh, insomma, probabilmente anche Casini ha pigliato un colpo di sole. Per quanto riguarda invece il direttore Sallusti, guardi, gli schizzi di fango possono venire sia dopo un acquazzone, quelli sono normali, ma possono venire anche perché qualcuno li teneva nel cassetto e deliberatamente ha deciso poi di buttarli addosso. È il nostro caso. Lei come se l'è spiegata la cosa del Corriere della Sera? Ripeto, il Corriere della Sera, no, quel rilievo su un quotidiano che non è, insomma, come Libero, il giornale è dichiaratamente critico. Nella proprietà del Corriere della Sera c'è anche la famiglia Berlusconi. Cioè, lei, ha detto Di Pietro al congresso, sono andato a vedermi chi era entrato nel patto del sindacato, ho visto che è entrata la figlia di Berlusconi e quindi questo. Lei sa che tranne qualche giornale forse indipendente, probabilmente il Fatto è uno di questi, ma non ne abbiamo moltissimi. Dico che anche il fatto è uno di questi, perché non fa sconti a nessuno e neppure a noi. Senatore Belisario, ma lei se lo immagina Ferruccio De Bortoli, non propriamente, voglio dire, questo anti-berlusconista combattente né filo-berlusconista, ma insomma una persona di cui, sia pure nella complicazione di fare direttore dei grandi giornali quando c'hai tutti che ti tirano la giacchetta, tutti sappiamo che Ferruccio De Bortoli non ha il cuore che batte particolarmente per Berlusconi. Allora, lei si immagina Ferruccio De Bortoli che a un certo punto c'ha nel cassetto sta cosa eccetera, poi siccome lo chiama la figlia, non lo so, di Gresti, chi vuole lei, insomma, a un certo punto boom, spara in prima pagina perché gliel'ha ordinato Berlusconi, non lo so, davvero glielo chiedo così, io conosco, guardi, Ferruccio, io non posso fare le domande, sì, perché le domande le fanno tre autorevolissimi giornalisti, però io devo porre agli ascoltatori delle domande. Che ci fa Di Pietro in una caserma dei carabinieri davanti ad ufficiali dell'arma con un microfono e con altre persone non inquadrate, circa un centinaio sedute nella sala? E se fosse una cosa dei servizi segreti, guarda caso c'era anche il fotografo di corte pronto a fotografare questa riunione. Ancora, dopo 18 anni qualcuno tira fuori queste fotografie, ed ancora lo stesso Contrada che dice: io lì ero capitato per caso, tant'è vero che Di Pietro mi ha detto: ma lei è maggiore o capitano dei carabinieri? Mi sembra una spy story alla matriciana, mi consente. Se poi qualcheduno ci vuole fare dei castelli di sabbia, lei sa alla fine che fanno i castelli di sabbia. Chiarissimo, proviamo a sentire intanto qualche ascoltatore, come per esempio Carlo da Monza. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo dire, riprendendolo, diciamo, l'argomento del teorema, della spy story, eccetera, io penso che un personaggio come Di Pietro, che basa tutto quanto il suo movimento su una rettitudine dal punto di vista della giustizia, sarebbe estremamente stupido da parte sua fare un errore del genere. Cioè, io non riesco a credere a una cosa del genere. Per quanto riguarda invece la questione di Luca, la questione del congresso, io penso che nel congresso c'è stata una grande azione democratica, insomma, non è che Di Pietro ha detto: io scelgo De Luca d'amblè e ve lo beccate. No, l'ha, no. Portato, certo, l'ha portato, l'ha fatto ascoltare. L'ha portato in un congresso e ha detto: questo è De Luca, dica quello che deve dire e decidete voi. E il congresso ha deciso. Sì, Marco Travaglio ha scritto: il congresso del tutto non edotto delle circostanze e dei fascicoli giudiziari che riguardano De Luca, alla fine l'ha applaudito, De Luca è un bravo politico, eccetera eccetera, ma insomma è chiaro che se un leader fa così sa di poter pilotare e indurre, potendo contare su uno come De Luca che non è nato ieri. Questa era l'obiezione di Travaglio, sto ripetendo. Certo, no, sicuramente De Luca non è, diciamo, un uomo di primo pelo e io ho seguito su web il suo intervento, è un intervento da direi davvero professionista. No, ma lo è, lo sanno tutti che è così. Quindi... Ecco, è un vero professionista, diciamo, della politica, eccetera. Si è preso alcune responsabilità di fronte a tutti, e c'è stata questa votazione che l'ha acclamato. Io capisco che il contesto, ci possono essere 10.000 valutazioni. Ok, d'accordo, però insomma, diciamo, lei è filo difensivista, insomma, non è successo niente, è attenti a... ho capito perfettamente. Eccoci tornati in studio, stiamo sentendo un po' di ascoltatori sul congresso appena concluso dell'Italia dei Valori. Continuiamo con alcuni di loro. Antonio dalla provincia di Napoli, prego. Antonio di Napoli, siete pronto? Prego, dica. Provincia di Cremona, comunque. Ah, mi hanno... ho letto male. Niente, lo facciamo tutti fratelli. Volevo rappresentare, se mai ci riuscirò, il mio immaginario, che spero sia l'immaginario dell'italiano medio. Questo processo e la sua prefazione, dottor Oscar, mi è sembrata, mi ha fatto ricordare, la pagliuzza nell'occhio del mio prossimo e le travi che circolano nella vita politica, nella vita economica dell'Italia. Quindi io non ho mai votato. Quindi il suo consiglio è che mi cambi gli occhiali. Sto scherzando, ho capito perfettamente, sì, cosa dice. Sì, io non ho mai votato l'Italia dei Valori, pur avendo avuto molte risposte nei loro atteggiamenti. Quello che si diceva prima è vero, che il dottor Di Pietro è un animale politico, così come lo sono molti altri. Però ci dimentichiamo che probabilmente, così come ha fatto la Lega, sono stati dei supporti importanti della democrazia. Poi, dal mio osservatorio, la Lega ha preso un'altra strada, che è quella del governare. Del governare vuol dire mettere le mani nella sabbia, e quando la si toglie qualche grano di sabbia nelle unghie rimane, anche non volendo. Ma è la stessa cosa che ha detto Di Pietro al congresso, quindi non è che me lo invento. Certo, no, ma io credo che Di Pietro si sia reso conto che per battere l'avversario, questo è il mio punto di vista, ha dovuto ammorbidire, perché poi se no c'era il buon Casini di turno, il buon Bondi che diceva Casini guarda qui, guarda là, quindi tutto era... Capito, Antonio, anche lei è difensivista, io non mica nego di no, però a quel punto, dopo che uno ha fatto, e a questo punto capisco Antonio Padellaro e tutti i colleghi del Fatto, perché se uno fa della irriducibile novità discontinuità, e poi soprattutto sulla questione morale, sul fatto che non scandano gli indagati, che ci si mette da parte se ti arriva una qualunque avviso di garanzia, e fino a che non è chiaro, tu politica non la devi fare, e poi se si scopre anni dopo che invece la politica è una cosa in cui bisogna esercitare dei compromessi, in cui in definitiva i provvedimenti giudiziari verso un politico consumato, verso il quale io ho molta stima personalmente, lo invito spesso come De Luca, però a quel punto in nome del battere l'avversario lo si può candidare e non è più incandidabile perché è indagato, tutto questo è semplicemente contraddittorio con quello che si è fatto, perché io mi dovrei inventare. Io guardi, io non cito qua in questa trasmissione l'innumerevole serie di circostanze che vengono dai colleghi di Libero del Giornale da molti mesi invece poste ogni giorno a Di Pietro, che riguardano la sua parabola personale, perché non è che Giannino ha vinto un concorso in magistratura e si scopre anni dopo che c'è un segretario del collegio dell'esame che dice no, veramente Corrado Carnevale ci ha chiesto lui di farlo promuovere perché i voti per passare all'esame non ce l'aveva, e il dottor Di Pietro con tanto di interviste del segretario del collegio d'esame per vincere il concorso in magistratura e così via, il numero di esami per la laurea, sul quale c'è un'osservazione critica da sempre su Di Pietro, come l'hai presa, e lui dice ogni volta figuriamoci come l'ho presa, però non è che spiega, e così via. Io non mi fermo in questa circostanza personale né sulla signora $50,000. Ieri sera De Magistris, non Giannino, diceva a Porta a Porta, e Di Pietro bisogna che però la pianti di circondarsi dei collaboratori di cui scopriamo poi dopo anni che ci sono assegni non si sa da chi e non si sa pagati, lo diceva De Magistris, non io, quindi si figuri se io non vedo le travi altrui, che sono grandi, però insomma le pagliuzze mi piace vederle anche, come dice lei, nell'Italia dei Valori e in Di Pietro. Ennio da Roma, prego. Ennio. Buongiorno, io chiamo da Roma, però sono salernitano, ho vissuto Salerno praticamente nell'era De Luca. A me sinceramente non mi è sembrato questo animale politico Di Pietro, perché avrebbe potuto tranquillamente pararsi dietro una sorta di proposta di primarie. Tanto avrebbe vinto De Luca, perché De Luca almeno a Salerno si può dire che ha il 110% dei voti, e così avrebbe salvato capre e cavoli. non avrebbe dovuto per forza fare il compromesso, non avrebbe dovuto per forza fare l'abbraccio, avrebbe detto ok, presentiamo un candidato, va alle primarie e magari, chi lo sa, presentava qualche candidato e come Vendola sbaragliava il candidato del PD. A noi di Salerno ci avrebbe fatto piacere, perché non ci fa piacere il fatto che De Luca vada a fare il presidente della regione, ma lo vorremmo fare il sindaco di Salerno. E quindi stava tranquillo. Grazie Ennio. Allora, un minuto di nuovo Padellaro e Sallusti, e poi un minuto e mezzo Belisario. Padellaro, si chiuderà positivamente con una vittoria questa cosa, perché poi alla fine vince De Luca e quindi la vittoria sanerà il tutto, oppure prevedi che questa frattura, questo problema aperto con una parte della sua base, si approfondirà? Ma non lo so, certo il risultato delle elezioni e non è indifferente, perché se poi paradossalmente tutta questa tutto quello che sta succedendo dovesse portare a una sconfitta di De Luca, insomma è chiaro che si sarebbe perso tutto, diciamo. Ma io credo che Di Pietro debba, io sono d'accordo con Belisario, bisogna fare politica, ma fare politica significa anche dare un percorso di chiarezza. Non c'è nessun riferimento, analogia, ma io ricordo, noi siamo vecchi di Montecitorio, che molti anni fa anche Almirante, che era il segretario dell'MSI, a un certo punto, che aveva avuto molti voti di protesta, disse a un certo punto passiamo dalla protesta alla proposta. Quindi, per dire che è vero che c'è un'esigenza di dire che cosa ne facciamo di questi voti, no? Però devo anche dire che tutto sommato il patto con il Partito Democratico esisteva già, non è che improvvisamente l'Italia dei Valori ha abbracciato il Partito Democratico, con Veltroni fu fatto un patto elettorale. Allora ripeto e concludo, è tutto un po' nebuloso, cioè non si capisce bene perché. Ecco, io penso che se Di Pietro vuole mantenere intatta la sua forza elettorale, il suo consenso dentro il partito, dovrà spiegarsi meglio, spiegare tutto con maggiore nettezza, con maggiore chiarezza. Chiarissimo, e il risultato elettorale avrà il suo peso. Sallusti, siamo all'inizio di una parabola discendente, secondo lei, per Di Pietro? Sallusti non c'è più, mi pare di capire. No, certo. Siamo all'inizio di una parabola discendente, fino a questo momento è solo salito Di Pietro. Ma Di Pietro si è abituato a vederlo in ottovolante, sale e scende. Condivido l'analisi di Padellaro, nel senso condivido la mancanza di chiarezza, e la mancanza di chiarezza suscita dei dubbi. Non ci fu chiarezza in una precedente svolta, quando lasciò la magistratura, si limitò a dire che l'acqua non andava più al mare, che mi sembra una frase molto ambigua e assolutamente insufficiente a spiegare una decisione del genere. È una costante di Di Pietro la non chiarezza, e del fare della non chiarezza la propria forza. Quello che è successo, secondo me, non è una pagliuzza, come ha detto l'ascoltatore, perché il fatto che Di Pietro abbia accettato, anche con entusiasmo, di sostenere un candidato con gravi accuse giudiziarie in corso, è come se Bossi domani, per vincere le elezioni in Lazio, rinunciasse, dichiarasse io rinuncio al federalismo, o come se Berlusconi, per vincere le elezioni in Puglia, dicesse io rinuncio alla riforma della giustizia, e anzi, sapete cosa c'è? Vi annuncio anche che vi aumenterò le tasse. Chiarissimo, cioè, chiarissimo, quindi un giudizio molto critico, e forse siamo all'inizio di una parabola. Senatore Belisario, lei invece come si aspetta che saranno queste elezioni per voi rispetto alla vostra base? Beh, a dirla con le assemblee provinciali, dove la gente ha partecipato, e a dirla con la platea del congresso, e poi con quello che il mondo del web, i contatti che il web ci ha riservato al congresso, e anche le critiche, su cui è evidente che si lavora, perché le critiche non si archiviano, le critiche si esaminano, si approfondiscono, come al solito, perché altrimenti non sarebbe un partito diverso, il partito che utilizza al meglio il web, che parla con i suoi aderenti, ma anche con i suoi detrattori. Come saranno queste elezioni? Noi abbiamo costruito in Italia ancora una volta liste che vengono dalla società civile. Non abbiamo indagati, non abbiamo condannati, Devo dire che questa volta abbiamo tolto anche un po' di chiacchierati, perché siamo voluti andare oltre, cioè non abbiamo guardato soltanto al casellario giudiziario. Giustamente la scelta di De Luca lascia qualche perplessità, gliel'ho detto prima, noi lavoriamo per costruire un'alternativa. Riteniamo. Beh, allora io ringrazio il senatore Belisario, Sallusti e Padellaro, vedremo, certo un problemino c'è. Oramai per la prima volta grandi giornali come il Corriere, io non credo perché gliel'ha ordinato Berlusconi, individuano qualche problema di coerenza. Quando i politici iniziano a avere problemi di coerenza sull'organo di informazione indipendente, vuol dire che da una parte e dall'altra chi pone problemi ha fatto un passo avanti, e quindi bisogna rendere più conto. Vedremo come sarà questo risultato elettorale. A me colpisce molto la durezza di Marco Travaglio, lo ammetto. Quando Marco giudica così, forse parla a nome proprio di una vasta parte di elettori delle Terra dei Valori. Comunque, grazie, l'appuntamento con il 9 in punto è a domani mattina, non con me, che domani credo non potrò esserci, ma un giorno e tornerò.